hai fatto certamente nascere un piccolo patticcio in paradiso, perché volevano tenerti lassù gli angeli del cielo. Venendo qui hai fatto certamente nascere un piccolo patticcio nel mio cuore, perché sei tanto bella e tanto piaci a me, ma non soltanto a me. Certamente nascere un piccolo pasticcio nel mio cuore, perché sei tanto bella e tanto piaci a me, ma non soltanto a me. Venendo qui hai fatto certamente nascere solo pasticcio nel mio cuore, perché sei tanto bella e tanto piaci a me, ma non soltanto a me, ma non soltanto a me, ma non soltanto a me.